Romero. Pane, burro e rock and roll. E devi curitina. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. In questo gioco ci siamo dentro insieme, eh? Mind Games. Questo John Lennon, puntata 208 di Pane, Burro, Rock and Roll. Ormai ragazzi siamo allo sfascio, mi son perso la sigla di Pane, Burro e Rock and Roll. Meno due punti alla patente da vero rocker dell'Ariele. Ma ero di là, stavo facendo a cazzotti con Garavelli, quindi mi perdonerete per essere... come si può perdersi l'intro, veramente? Veramente, no professionista di Geriele. In ogni caso, buona giornata, ci siamo qui anche per oggi. Giovedì 20 di marzo 2008, l'anno della svolta contro il muro. Andremo avanti fino alle 9 di questo giovedì da vivere assieme con tanta buona musica. Che inizione, eh? Non posso nemmeno più ringraziare Spadino. Guardavo tra uno spam e l'altro, tra una proposta di Angelina Jolie nuda e scatole di Viagra in sconto, che in tanti stanno rispondendo via mail alla domanda che ponevamo ieri: perché ascoltate Rock FM? Per questo non male dello zio Ago, che inizia solo così: ciao Ariel, sono lo zio Ago, guarda che ascoltavo Rock FM solo perché mi stava simpatico Spadino. Addio Spadino, resterai sempre nei nostri cuori. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Velvet Underground, Sunday morning, stiamo schiacciando il piede sull'acceleratore, eh? Spero ve ne siate accorti, almeno musicalmente parlando. C'è Mr. Trombetta a tenerci compagnia questa mattina e tra poco l'arrivo di Roberto Fricantoni per l'ennesimo appuntamento di Pane, Burro, Rock and Roll un po' sopra le righe, ragazzi. Sono giornate un po' così. Io vi ricordo le linee di contatto, che sono un numero di SMS che è il 335-100-7777 e una casella di posta elettronica che è ariel@radiorockfm.com. Come ogni giorno spero di sentire anche quest'oggi qualcuno degli amici o delle amiche sintonizzati. Ma sì, buttarvi in onda un po' così per vedere cosa capita. Mentre c'è al volo un messaggio preoccupante che arriva da Tiziano per la community di PBR. Mentre voi vi occupate degli spot sul liscio a Tele Lombardia, su RDS regalano i biglietti per andare ad aprile a vedere i Rolling Stones a Londra. Questo problema va risolto, i biglietti rock li dovete regalare solo voi, Tiziano. Bisognerebbe organizzarsi e vincerli noi quei biglietti. Cioè dovremmo vincerli noi e poi rimetterli in palio a Rock FM, no? Che cattivi Rolling Stone a dare i biglietti ad RDS e non a noi. Noi che ci vogliamo tanto bene agli Stones. Vabbè, ma fa niente, tanto la nicchia vincerà. E la storia ci darà ragione, no? Funziona sempre così. Lunedì, il martedì, il mercoledì, eccoci così giunti al giovedì. E domani? Domani sarà venerdì, ma oggi il 20 marzo. Buongiorno, uno splendido giovedì. Buongiorno DJ Ariele. Io me la immagino sull'Eurostar a Bologna, a Milano, mentre viene qui, che se la pensa. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, oggi è giovedì, verrà il venerdì, cosa lunedì, posso martedì, dire? Il giovedì sarà metà settimana, di pensi? Di fare un almanacco del giorno che fu preparato col sudore della fronte della redazione. Dalla redazione, ma naturalmente no, come al solito, sono svogliato e negligente. Perfetto, il 20 di... mi piace negligente. Il 20 di marzo del 1800, quando Alessandro Volta rende pubblica l'invenzione della sua pila. Della famosa pila di Alessandro Volta, sa che per della serie, ecco, per la serie Le notizie assolutamente inutili. Prego. Io so che è superflue, so che Alessandro Volta iniziò a parlare a soli 3 anni. ed è vero, la sfido a verificare. No, ci credo veramente. Come sono andato? Era fantastico, mi piaceva tantissimo. Allora, chissà quando iniziò a parlare Albert Einstein, certo è che il 20 di marzo nel 1916 pubblicò la sua teoria della relatività E uguale MC2. Che aggancio, stupendo! E me la spiega questa E uguale MC2? Prego, Isacco Rizzi, apra il microfono e ci spieghi la relatività. Beh, penso che significhi energia uguale massa per velocità della luce al quadrato. È un ragazzo che ha studiato, non sembra, ma ha studiato, bravo! Bravissimo, i nostri applausi. Complimenti. Un'altra bella notizia legata al 20 di marzo riguarda John Lennon, che proprio oggi, nel 1969, sposò Yoko Ono. A Gibilterra. Ah, Gibilterra, sì. Sì, e al riguardo fu costruita, fu registrata quella famosa canzone in cui diceva ci stanno crocifiggendo perché tutto il mondo li stava osservando e li stava criticando. Inizierà poi domani, e presumo lo ricorderemo, il Bedin, gli 8 giorni al Bedin, ma ce ne occuperemo domani. Chiudiamo con una notizia discografica. Ah sì, quella che riguarda... 1991, Michael Jackson firma un nuovo contratto per la Sony, che lo voleva assolutamente e che lo pagò 65 milioni di dollari. Sì, vedo, leggo, che invidia. Ecco, devo dire che anch'io ho ricevuto una telefonata dalla Sony, ma avevano sbagliato. Cercavano qualcun altro. Sì. Povero Antonio. Un certo Colantoni. Colantoni, ma chi? Il cantautore partenopeo? Antonio Colantoni? Che rabbia! No, Medaglia! Viva Antonio Colantoni! Viva Fricantoni! Solo rock and roll, ma ci piace gli Stones. Adesso per Mick e Jagger, no, per Mick e Keith, che solitamente si svegliano a quest'ora per accendere il computer e connettersi in streaming e ascoltare pane, burro e rock and roll. Lo fanno un po' perché gli piace la trasmissione e un po' perché vogliono imparare l'italiano. Ragazzi, ditelo anche agli altri Stones che i radioascoltatori ci sono rimasti un filo male, che fate regalare i biglietti a un'altra radio e non a noi, che vi abbiamo sempre supportato. In ogni caso continueremo a supportarvi perché ci piace anche a noi il rock and roll, ma quest'oggi con un filo di stizza, offesi perché ci avete scavalcato. Richieste di strombazzate, come per esempio questa da Barto. Complimenti per la trasmissione. Strombazzata, saluti da Zena, maestro e DJ Ariele. Strombazzata, eccola qua. Anche Oscar e Serena chiedono strombazzata a terzo per amico Adriano, che ne ha veramente bisogno. E allora noi strombazziamo. Qualcuno tenta di screditare la cultura di Isacco Rizzi proponendo una nuova versione di E uguale MC2, al quale veramente non do nemmeno, già ho sbagliato a leggerla perché proprio non dovevo nemmeno guardarla. Strombazzata a Laura e anche al buon Ste, che chiede il maestro Fricantoni a vivo. Io vi ascolto in nome del rock and roll, del G-Mix dalla superba Genova. Vi ascolto perché mi date la carica e poi perché amo la musica rock. Paolo da Cremona, quindi state continuando sulla domanda di ieri, bene, perché no? Tra l'altro in molti ieri non sono riusciti ad andare in onda, quindi volendo siamo sempre qua. Ciao Mauro, mi hai sentito da un'altra parte, ma no, sarà qualcuno che mi assomiglia. Ho una voce molto standard, io, sai? E una strombazzata per la patentata 853, che ci segnala una Pontedera sotto pioggia e vento e lei fuori a scaricare. Quanti ricordi legati a Pontedera, soprattutto nella programmazione pomeridiana di Frigidaire, i primi anni, i primi contatti dalla Toscana che conta, era Pontedera secondo me. Dopo centinaia di insulti, vedete, anche il DJ Ariele può imparare e diventa Pontedera, capito? Mi sono accorto anch'io che c'era un po' di venticello quest'oggi, quando alle 5:50, in arrivo alla stazione di Gallarate, che è bella in discesa, il vostro DJ Ariele con il suo monopattino da supereroe non andavo giù, capito? Perché c'era il vento contrario e stava fermo. Salve Giovanna. No, Ariele mi chiamo. E il mio nome è Roy. E il mio Ariele. Sei del Texas? No, di Gallarate. Ma dai, anch'io. Potremmo incontrarci qualche volta, fare un aperitivo insieme magari.